Abbiamo in diretta un compaio greco che fino a poco fa è stato in piazza. Pronto? Pronto? Allora, ci puoi fare un resoconto di quello che è successo fino ad ora? Non ti sento bene. Degli scontri, mi senti? Pronto? Sì. Un resoconto di quello che è successo fino adesso, insomma. Sì, stamattina c'era il raduno a Piazza Sinama, sia della gente che va tutti i giorni da 30 giorni da questa parte, sia i cortei sono radunati là, il corteo del Partito Comunista Greco, con PAME, e sia i sindacalisti della ISE praticamente. Migliaia di persone hanno cominciato a gridare contro le misure di questo memorandum che stanno per votare oggi. Poi all'interno del Parlamento c'era la discussione fino a poc'anzi, penso che adesso stanno votando, non lo so, verso mezzogiorno c'era uno spiegamento di polizia che era una cosa incredibile, più gli elicotteri che volavano sopra eccetera, e praticamente la gente ha cominciato a gridare le solite cose, cioè ladri, basta con sto governo e così via, andatevene in Europa e lasciate noi a vivere in povertà, tutte queste cose qua. E poi alla fine ci sono stati giovani che hanno cominciato a spingere la polizia ha cominciato a caricare. Da mezzogiorno fino a poc'anzi c'erano scontri con la polizia, i candeloni lacrimogeni, tutto il centro di Atene pieno di candeloni lacrimogeni, cioè praticamente il centro è tutto chiuso, non si riesce a passare nessuno, e c'è una puzza di candeloni, cioè praticamente quando passi dal centro piangi. Questa è la situazione fino adesso. Adesso stanno per votare in Parlamento, non so se hanno finito di votare perché me ne sono dato di là, sto andando a casa e non so cosa dirvi, non so il risultato. C'era anche lo sciopero dei giornalisti dalle 11 fino alle 15 e così non abbiamo neanche le notizie. Va bene, noi ti ringraziamo, quindi continueremo a seguire questa situazione, ti ringraziamo. Scusa un attimo. Va bene. Senti Tassos, scusa, ci sei ancora Tassos? Sì, ci sono. Ecco, dimmi. Senti, siccome noi insomma da stamattina che stiamo anche vedendo attraverso le immagini che diversi siti rimandano in diretta quanto sta succedendo a Piazza Sintagma e nei dintorni, insomma gli scontri continuano ad andare avanti, ancora proprio in questo momento si sentono forti esplosioni, insomma candelotti lacrimogeni che volano da una parte e dall'altra, quanto pensi che possano andare avanti insomma questi scontri e come pensi insomma che poi come dire si possa dare continuità a questa battaglia che sta assumendo grandi proporzioni, ma poi alla fine se rischia diciamo di essere ridotta soltanto allo scontro con la polizia, immagino che ci si deve porre anche il problema di come andare avanti oltre a questo, no? Ma è ovvio, però non c'è una strategia, non c'è una tattica da seguire, cioè praticamente è un movimento spontaneo di migliaia di persone che sedono in piazza e dall'altra parte c'è il governo che fin quando ha tenuto una posizione rigida per quello che riguarda sto memorandum, pensate che l'avevo detto anche una quindicina di giorni fa che siamo stati senza primo ministro per certe ore ad Atene perché si era dimesso e cercava il collegamento con altre forze politiche eccetera eccetera, poi hanno fatto il nuovo governo il quale si è presentato con un pugno di ferro, cioè praticamente hanno voluto passare queste misure anche con una maggioranza di 4-5 voti rispetto al 50%, cioè noi abbiamo 300 deputati in Parlamento e pensavano di votarlo con 154-156 deputati, capite? E di conseguenza la gente è cavolatissima, però non c'è un'organizzazione che ha una strategia per come portare avanti questa lotta, anche perché la gente non viene controllata da nessuno. in questo momento di domenica in tutte le città di Atene, per esempio della Grecia, sia ad Atene, sia a Salonico, sia a Eraclio di Creta, eccetera, si raduna la gente e grida contro questo memorandum, però non c'è un gruppo che riesce a controllare queste persone. Sono persone di tutti di tutte le risme, diciamo da destra a sinistra, soprattutto gente di sinistra, con gli anarchici anche, e di conseguenza non si capisce bene come andrà a finire questa storia. Quindi Tassos, in pratica ci stai dicendo che da un certo punto di vista, affinché si incrementi una battaglia che già è chiaramente esplosa e divampata da 2 mesi e che oggi si sta rendendo fortemente esplosiva con questi scontri dalla grande intensità, ma tu credi che sia necessario che ci siano dei passaggi organizzativi in più, insomma? Ma non ci sono questi gruppi ben organizzati per poter incanalare tutta sta gente in una rivoluzione, in qualcosa, capite? La gente è spontanea, è incavolata nera, è in piazza, fa casini, a parte gli anarchici che riescono in qualche modo a forzare un pochettino, a tirare tante bottiglie molotov, ad essere organizzati, a spaccare le pietre, perché ieri sera per esempio Sindama era una piazza proprio distrutta. C'erano delle persone con i martelli che spaccavano i marmi della piazza, li tiravano sulla polizia, e poc'anzi che c'ero là, c'era la stessa scena, insomma. È una situazione drammatica, io non so come andrà a finire, ve lo dico sul serio, cioè. Scusami Tassos se intervengo di nuovo, no? Ma ad esempio questo processo di presa di parola all'interno dei quartieri con la creazione di queste assemblee non è un momento all'interno del quale si pensa anche a una strategia, ad esempio, di piazza, a come far pesare questo tipo di rottura sociale che, insomma, comunque è forte, ma come dicevi tu non si riesce bene a strutturare? Non c'è, purtroppo, perché ci sono discussioni, ovviamente la sera a Sindama si raduna della gente, anche professori universitari, economisti e così via, i quali discutono sulla situazione economica, dicono l'altra idea, insomma, rispetto a quella che segue il governo e così via, però non c'è niente che li può organizzare. Non c'è, anche perché guardate, il Partito Comunista Greco, che ha una forza del 10% per esempio in questo momento, come lo danno, fa le manifestazioni per i fatti suoi, ben organizzate, con servizi d'ordine, eccetera eccetera, e ci sono poi gli altri che sedono in piazza, che riescono a radunare della gente, e tutti questi giorni, sono 30 giorni che praticamente sta gente è sempre lì in quella piazza. E va bene, dunque, insomma, è una situazione che non riesco a spiegare. È una situazione che, come ce la descrivi, è un po' senza sbocchi, insomma, al momento sembra essere un po' senza sbocchi, dal punto di vista rivoluzionario quantomeno. Non ve lo so dire francamente, non so, non c'è niente di organizzato per poter bocciare in una situazione rivoluzionaria, no? Non c'è. Purtroppo non c'è. La gente spontaneamente può spaccare banche, può bruciare edifici, sì, quello si può fare, però è una cosa spontanea. Poi ci sarà la repressione. Pensate che Bagalos, vice primo ministro, all'inizio della settimana, in un giornale spagnolo, una intervista nella quale diceva che questa situazione può portare, se la gente, insomma, spinge tanto e non riescono a passare sto memorandum, dice, torneremo alla dracma, le banche saranno chiuse, poi ci saranno i carri armati che saranno costretti, perché la polizia non ce la farà, saranno costretti a difendere le banche, e di conseguenza lo farà come in Argentina, dove sono state 42 morti, eccetera eccetera. Capite bene che tutte queste cose fanno impaurire la gente, fanno incazzare la gente, e scendono in strada, si scontra con la polizia. E poi ieri sera, per esempio, c'era, vi racconterò solo una scena, ieri sera c'erano gli scontri in via Caragiorghi di Servias, proprio sotto Sindaco, no? C'erano dei scontri di giovani con la polizia. A un certo momento la polizia tirava lacrimogeni, bombe di suono e di luce, eccetera eccetera. A un certo punto si scoppia una di queste bombe, scoppia in mano a un poliziotto, no? Perde due dita, e tutta la gente si ferma subito, comincia a cercare le dita di questo Cristo qua per portarlo all'ospedale. Trovano le dita, parte questo qua per andare all'ospedale insieme alle sue dita, e gli scontri cominciano di nuovo. La gente è incavolatissima, non si sa come andrà a finire questa storia. Ve le dico le cose per rendervi l'idea di cosa abbiamo visto e di cosa viviamo qua in Grecia in questo momento. E beh, insomma, la situazione che ci descrivi è di grande caos, ma da questo punto di vista, in un certo senso, è anche ovvio che ci sia questa situazione, visto che ormai il paese è veramente sull'orlo della bancarotta, ma soprattutto i ceti popolari sono allo stremo, insomma, sono strangolati. Dicevi. Continua, per piacere, io non riesco più a sentirti bene. No, niente, stavamo dicendo che è ovvio che ci sia questa situazione. Certo, è un peccato il fatto che appunto poi i passaggi successivi per cercare, insomma, di incanalare questa profonda incazzatura, genuina incazzatura, e tra l'altro anche ovvia incazzatura, legittima, appunto, ecco, facciano fatica a costruirsi. È un peccato, insomma. È un peccato, sì, perché la sinistra, se fosse unita la sinistra a questo punto, io penso che se ci fossero state le elezioni la sinistra sarebbe riuscita a prendere un 40%, ma effettivamente un 40%. Sono gruppi, il Partito Comunista che prenderà 10%, il Partito Comunista di Interno Sinaschismos che prenderà il 6%, poi ci saranno gruppi trotskisti eccetera eccetera che prenderanno il 2%, c'è la sinistra democratica che prenderà il 3%, eccetera eccetera. Così la gente si è rotta le palle, non ha più voglia né di votare né di seguire questi partiti e così via, no? Di conseguenza c'è sto caos in Grecia, che continua ad essere fin quanto c'è il movimento spontaneo, e c'è, e abbiamo questi scontri in piazza e questa reazione a questo memorandum che ci stanno riportando. Va bene, dai, grazie allora Tassos, davvero grazie per questo contributo. Ciao. Ci sentiamo, ciao. Sni and Jazz al popolo. Venerdì